Vendo tutto di Matteo Caccia. Vendere le cose non è solo un modo per liberarmi di tutto. È la maniera per ricordarmi che quello che non si vede, quello che non si tocca, quello che non si dice, è più forte di quello che ho accumulato nella mia vita. Quindi non mi fermo, vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo un DVD. Sono le 16:08 minuti, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e fuori c'è un gran bel sole. Venite a Milano quando capita che la giornata è meravigliosa e farsi una passeggiata a Milano quando c'è una bella giornata è molto più bello. Non c'è una bella giornata? A me pare di sì, dal vetro, dal niente. Di là dalla regia non sono d'accordo. Oggi si parla però, tenetevi forte, perché l'argomento di oggi è un argomento molto importante, perché stamattina non si parla di DVD, no, se è quello che pensavate non è di quello che si parla. Stamattina ho avuto una discussione con la mia portinaia, la signora che... Lei vorrebbe essere chiamata custode, la signora Emma, in realtà. Però, dai, diciamoci le cose. Cioè, viene più la portinaia, no? Che c'ha quella roba che è sempre lì, che... Allora, guardi, non saranno fatti miei, però... Al primo piano lì c'è un giro strano. Non sono fatti miei, però magari ne parla lei con l'amministratore. Insomma, è un po' infastidita dai corrieri che vengono e spediscono la roba, gli oggetti che vendo. Allora stamattina, come al solito, ogni tanto piglia e citofona. Chi è? Signor Caccia, sono la Emma. Senta, allora, questo corriere tutte le mattine tocca a me firmare. Guarda signora, firmi lei, guardi, non è un problema. Sì, ho capito, però questo poi lascia qui i pacchi, mi rimangono nel cortile. Insomma, chi è? Signor Caccia, la bicicletta. Allora, io gliel'ho già detto, lì nel cortile dà fastidio. Poi c'è la signora del secondo piano. Signora Emma, per piacere, ma chiuda un occhio ogni tanto. Chi è? Signor Caccia, se non raccomandata, firmo io. Ma firma direttamente, Emma, perché me lo chiedi? Niente, è più forte di lei. 80024 0024 oppure 349-238-6666. Le portinaie si fanno i fatti nostri. Per una volta facciamoci i fatti loro. Ho voglia di sentire storie di portinaie, la storia della vostra portinaia o del vostro portinaio. Perché dentro a quegli uomini e quelle donne che se ne stanno in uno sgabbiotto c'è sempre un mondo. Spesso sono uomini italiani o donne italiane, spesso non lo sono. Spesso sono uomini stranieri che arrivano qui e si prendono cura delle nostre scale, ma anche un po' delle nostre vite. Perché un portinaio è un po' un punto di riferimento alla fine, no? C'è qualcuno che deve lasciare qualcosa, lo chiedi a lei. No, chiedevo, lei mi citofona e io le rispondo. Chi è? Signora Emma, senta, passa più tardi il corriere. Signor Caccia, allora sta storia che vende tutto però, c'è anche un po', vabbè. Però alla fine ti fa sempre il piacere. 80024 0024 349 238 6666. Perché poi ci sono i portinai che gestiscono giri assurdi, mercati neri, robe, prodotti che solo i portinai hanno. Quindi se vivete nei paesi, ci sono le portinerie nei paesi? No, mica tanto. Poi quando guardi, sai che c'hanno sempre le tendine tirate, no? C'hanno sempre le tendine tirate. E che cosa c'è dentro quelle guardiole, quelle case? 80024 0024 349 238 6666. Storie di portinai. Facciamoci per una volta i fatti loro. Oh, a me sta argomento piace. È inutile che di là fate questa faccia, ok? 80024 0024. Tutto parte però da cosa? Da questo DVD. Quello che vendo oggi. Per vederlo, ne ho già parlato ieri, ma oggi ne parliamo ancora. Per vederlo, Radio 24 4.it per sentire la sua storia, eccoci qua. Il DVD. DVD de La vita è meravigliosa, film del 1964 con James Stewart e Donna Reed, regia di Frank Capra. Genere commedia, durata 130 minuti, audio italiano e inglese, sottotitoli in italiano, menu interattivi e accesso diretto alle scene. Perfetto per chi abbia voglia di piangere o voglia tenere nella propria biblioteca un capolavoro della storia del cinema. Valore commerciale 12,90€, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 80024 0024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. L'abitudine è la cadenza che si dà alle proprie giornate e che le rende tutte uguali. È rassicurante, perché conferma quello che si è e lo racconta agli altri. Personalmente, da quando ho smesso di possedere certi oggetti, ho dismesso anche molte abitudini. Ho venduto le scarpe da montagna, per esempio, e non vado più a passeggio. Non gioco più a tennis, non guardo la TV, non vado più in Vespa, non leggo più il National Geographic, non suono più la chitarra, non vado neanche a sciare. Però, in compenso leggo di più, prendo i mezzi pubblici, cammino e passo tranquilli weekend in città. Perché l'abitudine è sempre lì, è sempre pronta a prendere una forma. Se si fa una cosa, ci si abitua a quella. Se non la si fa quella cosa, ci si abitua a farne senza. Alcuni dicono che è l'essenza stessa della sopravvivenza, altri invece la combattono con forza, come se l'abitudine fosse un male da estirpare. L'abitudine nasce da una mancanza di novità, però credo che dopo il Grande Fratello sia la cosa più bistrattata eppure più frequentata che ci sia. Nessuno ammette di trovarcisi comodo, tutti fanno sempre l'apologia della novità, delle nuove mode, dell'ultimo film, dei luoghi esotici per l'estate, poi però vanno allo stesso ristorante da anni. La domenica sera pizza e cinema e la sigaretta dopo il caffè. Io credo che se tutti ammettessimo che l'abitudine è un toccasana, saremmo meno patetici. Ci sono cose che io faccio e che poi ripeto, trascinato da un'inerzia strana all'infinito, senza cambiarle mai, sempre uguali, sempre le stesse. L'abitudine è proprio quell'inerzia lì, ed è la cosa che tutti cercano e tutti fuggono, perché è confortante ma fa paura. È bello sapere che ci sono cose che ti accadono in sequenza, che quasi ti accadono automaticamente, no? Senza che più nemmeno ci pensi. Ti siedi sul divano e ti togli le scarpe. Entri in un bar e ordini cappuccino e brioche. Chiedi il solito. Ecco il solito, ad esempio. Il solito racconta agli altri un pezzo di te. E credo che sia rassicurante anche per loro. Come se tu mantenessi la promessa che hai fatto e che fai tutti i giorni. La promessa di essere così, sempre così e non in un altro modo. Se le persone intorno a te possono prevedere le tue mosse, si sentono più al sicuro. Ecco, le abitudini ammiccano, ti dicono, dai, ormai ti conosci, no? Sei fatto così. E non è facile abbandonarle. Boh, e forse non è nemmeno giusto. L'abitudine riesce a togliere forza e intensità a qualsiasi picco, alto o basso che sia. Però al contempo dà serenità. Ti accoglie e un po' ti culla, non fa paura l'abitudine, è consolante. L'abitudine è come l'acqua tiepida. Non tonifica come quella fredda e non rilassa come quella calda. Però almeno ci puoi fare un bagno. Tra le mie abitudini c'è sempre stata quella di salutare la portinaia di casa mia, la signora Emma. Quando entro e quando esco, le dico buongiorno, buonasera e quando serve grazie. Punto. Non che non mi sia mai interessato a conoscerla, è solo che l'abitudine nei suoi confronti era quella lì. Era quella di vederla sempre lì al suo posto e salutarla. Nulla di più, nulla di meno. Finché un giorno lei ha rotto questa abitudine. Mi ha guardato mentre passavo, mi ha chiamato e mi ha detto «Ah, signor Caccia?» C'è un pacco per lei. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fought. Il pacco che quel giorno mi consegnò la mia portinaia conteneva questo DVD. O meglio, non proprio questo qua che vendo oggi, perché questo l'ho comprato in un'edicola. Però conteneva comunque una copia della Vita Meravigliosa. Di questo film ho già parlato ieri, quindi non mi dilungherò ancora, anche se lo trovo uno dei film più belli della storia del cinema. La forza di questo film non sta solo nella sua regia, nella recitazione, nella fotografia. Per me la sua forza sta proprio in un'altra cosa, per il fatto che è stata come una lama che ha strappato il velo dell'abitudine. Grazie a quel DVD lì, che poi, come spesso capita, ho prestato a qualcuno e non mi è più tornato indietro, io mi sono accorto dell'esistenza della mia portinaia. Spesso mi capita a tutti, credo, nella vita, di incrociare delle persone che passano accanto quotidianamente, di cui quasi non mi accorgo neanche. Colleghi di lavoro, avventori del bar, il cameriere della pizzeria da sporto. Persone che impari a conoscere per piccoli dettagli, no? Per cui poi con loro parli in quel modo, con uno fai due battute sulla partita, con l'altro fai un cenno alla pioggia che non smette di scendere. Eppure tutti loro hanno storie che vivono e che potrebbero raccontare. Ecco, è stato esattamente il caso della mia portinaia, la signora Emma. Io mi ero abituato a vederla nel suo sgabbiotto davanti al tavolo in formica, con la televisione perennemente accesa. Non me l'ero mai domandato, però ero convinto che lei non avesse passioni forti, cioè non avesse moti di spirito. Credevo fosse una signora di età indefinibile tra i 50 e i 70 che non aveva una vita sua al di fuori di quella guardiola lì. Invece, dopo che mi ha detto del DVD, abbiamo iniziato a chiacchierare. E ho scoperto che è sposata, ha due figli che vivono in Argentina e che appena può li va a trovare. Ho scoperto che arriva la mattina alle 7 e che smonta alle 2 del pomeriggio, che suo marito è juventino, ma soprattutto che è molto credente. Quando ha cominciato a raccontarmi di Adamo ed Eva, io ho capito che forse era meglio continuare a dirle buongiorno e buonasera, però ormai era troppo tardi. E quindi invece che andarmene, ho provato a dirle come la pensavo io. Quindi ho citato Darwin, l'evoluzionismo, però lei non ha apprezzato molto. E a un certo punto si è pure messa a piangere. E ho provato a dirle che non era il caso, no? Che ognuno può avere le proprie idee senza per forza intaccare quelle degli altri. Niente, non c'è stato verso. Da quel giorno in avanti, ogni volta che mi incontra per le scale, ho sempre la sensazione che stia per mettersi a piangere. Allora ovviamente la schivo e vado oltre. Insomma, tutto per dire che alla fine le abitudini sono un aspetto positivo della vita, che non è necessario romperle, che spesso si sta bene come si sta, ripetendo all'infinito la stessa sequenza di azioni, senza farsi troppe domande, senza chiedersi se non sia il caso di cambiarle. Perché vi assicuro che quando uscivo di casa ero molto più tranquillo prima, quando avevo l'abitudine di salutare la portinaia e basta, che non adesso, che mi sento in dovere di scambiare due parole sul Papa o sulla sindone. Eppure, niente. Anche stavolta, nonostante le abitudini infrante la mia portinaia, questo DVD è in vendita. Il suo valore è di 12,90 euro. La base d'asta sono 99 centesimi. Se volete raccontarmi la storia della vostra portinaia o portinaio, 800 24 0024. Mi scrivono: un mio amico a 18 anni urlò a suo padre che faceva il portinaio: non voglio finire come te a guardare la TV sul divano. Ora ha 43 anni e un bel 52 pollici. E ancora Luca mi scrive: l'eleganza del riccio, libro e poi film che credo sia solo il riccio o l'eleganza, il riccio, boh. Come dare al termine portinaia un nuovo significato. 800 24 0024. Sentiamo le storie delle portinaie. Però andiamo a Roma da Andrea. Pronto Andrea? Ciao Matteo, buongiorno. Ciao, buongiorno a te. Quindi ci sono chiaramente le portinaie anche a Roma, perché prima è nato un dibattito sul è una roba solo milanese la portinaia. No, non ma è ti vero. Devo raccontare di una portinaia milanese, che ti credi? Ah sì? Sì, ho vissuto a Milano per 3 anni. E la portinaia che ci accolse in questo bel stabile dove stemmo per 3 anni io e mia moglie, il primo anno arrivò al buongiorno e buonasera, ma ci vollero 6 mesi. Ok. E il secondo anno, con una grande esplosione di cordialità, si riuscì ad arrivare a qualche quando passavamo davanti alla portineria. E oramai noi, da bravi romani trapiantati a Milano, ci avevamo fatto il callo su questo. Ok, eravate abituati quindi. Di socializzazione. E ce ne eravamo anche fatti una ragione. Sì, e così sì. Siamo scivolati verso la fine del terzo anno. Quando alla fine abbiamo fatto i bagagli per ripartire verso Roma, l'ultima settimana si presenta la portinaia con il marito, disperata, con l'emozione, le lacrime agli occhi. Dottore! Cioè che? Ho saputo che andate via! Che dispiacere! E quindi ecco, c'è un cuore e un'anima in ogni portinaia, direi Andrea. C'è un cuore e un'anima. Non avremmo mai sospettato di aver toccato le corde di questa persona che per 3 anni ci aveva a malapena rivolto la parola. Come si chiamava Andrea? Guarda, ho più colpa io di lei perché non mi ricordo. Non lo sai, perfetto. Era una portinaia. Grazie Andrea, buona giornata. Ciao, ciao, alla prossima. Andiamo... Signor Caccia, allora per piacere. Andiamo. Basta Paolino, se no andiamo avanti fino a domani. Andiamo in provincia di Varese da Danilo. Pronto? Ciao, sono Danilo. Ciao Danilo, buongiorno. La mia mamma era una portinaia. Oh. Allora, io potrei dire questo della portinaia. Chiaramente io parlo di una portinaia di 30 anni fa. Chiaro. 20 anni fa. E c'è differenza, no? Danilo, secondo te? Allora, partiamo dal presupposto che una volta c'erano i cortili, dove i bambini giocavano nei cortili, per cui prima ferita, l'acqua, la botta, dove si andava? Dalla portinaia, perché il bambino si era fatto male. E poi c'erano delle persone anziane, quindi che vivevano nel condominio, quando c'era qualche problema, la portinaia, quando... Era, guarda, io non so come mai, ma nella mia scarsa fantasia, la portinaia la associo un po' alla bidella. Cioè... E poi, l'ultima cosa, il mediatore, perché tra condomini ci sono sempre problemi. Quindi prima di arrivare magari, che io parlo di allora perché adesso le cose magari sono un po' cambiate, se c'era qualche problema tra vicini si andava dalla portinaia. E poi un'altra cosa che mi piacerebbe dire è questa, che la portinaia non è una persona che si impicciava delle cose degli altri, come tanti credono, erano gli altri che andavano dalla portinaia a raccontare tutta la loro vita, perché la portinaia alla fine, insomma, diventa un po' come una spugna. Sì, diventa un po' come un po' come un prete o un barista. Grazie mille Danilo, buona giornata. Sentiamo Pietro da Verona, pronto Pietro? Sì, pronto. Ciao ecco. Pietro, senti, tu ci hai scritto una cosa molto divertente che riguarda la tua portinaia, giusto? La mia portinaia però di Milano, perché a Verona i portinai ci sono... Ma allora è vero che sta roba della portinaia è solo milanese, ragazzi? Mi fate venire un dubbio. Ma figurati, ci sarà una portinaia a Torino, a Roma? Comunque, Pietro, come si chiamava la tua portinaia? No, si chiama tuttora perché è vicina, la vedo tutte le settimane, si chiama Rachele. E ha una collezione infinita di cartellini, alcuni stampati, altri scritti a mano, che lei continua ad attaccare sulla sua porta per dirci dov'è, perché non è mai nel suo gabbiotto. Ah, giusto, dov'è, cosa fa? Tipo, sono sulle scale. Sono sulle scale, sono in cortile, oppure domani la portineria chiude alle 12, alle 11, alle 10, alle 9, e a volte lavora a mezz'ora e non capiamo che senso abbia. Va bene, mi rimane il dubbio sul fatto che la portinaia e la portineria sia una cosa milanese, ma me lo tengo e lo svegliamo. Grazie mille Pietro, buona giornata. Ciao, alla prossima. Sono Emma. Appena torni a casa si fa i conti per aver raccontato i cazzi miei alla radio. Perfetto, questo ascoltatore prima o poi sentiremo chi è, perché è magnifico. Oggi però ho il piacere di avere in studio, visto che non abbiamo praticamente, ci incrociamo nei corridoi, non ne parliamo mai, Luca Tremolada. Io sono contento come un bambino di essere qui, anche perché Matteo Caccia mette in soggezione. Parliamo di un bel uomo. Di cosa parla Luca Tremolada oggi? Di no, oggi facciamo un po' l'iperlocalismo. Cioè, che ci pensavo stamattina. Perché Luca non parla mai dell'iperlocalismo? Che è in due parole che cos'è? Non lo so, però è bella la parola perché funziona. Cioè, facciamo storie iper non locali, ma iperlocali, per cui molto locali. Senti, Tu sei, sì, è un po' come se fosse un condominio di fatto. Sì, sì. Quindi sì. Oggi Luca Tremolada, la portinaia di Radio 24. Io ringrazio lui, ringrazio Laura Faggini, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Paulino Corleoni. Il DVD, come al solito, è sul sito. E lunedì invece vendo una roba, ragazzi, tenetevi forti. Lunedì vendo gli ingredienti per celebrare una cerimonia religiosa indiana. Vi lascio a Luca Tremolada. Se invece voi non l'avete mai fatto questo fine settimana, guardatevi La vita è meravigliosa, che è un gran film, è sempre un gran film. La, la, la.